buona serata a tutti gli ascoltatori e le ascoltatrici, insomma, le entità in ascolto. Dopo qualche problemino tecnico siamo riusciti orgogliosamente ad andare in onda dai mitici studio di Fricole. Il tuo orologio segna la tarda ora delle 19:17. Ritardo, vabbè, dai, abbiamo fatto il tardo. Intanto questa serata l'ho chiamata aperitivo solitario, perché sono un po' solo qua nello studio di Fricole. Cioè, in realtà c'è sempre una presenza che mi fa compagnia. Ciao a tutte. Sì, è Tobias. La compagnia, beh, sarà molto morbido, pensavo di passare un aperitivo solitario in studio qui a Fricole, ma ho deciso di fare compagnia. Ed è stata proprio una lieta notizia. E allora, spero che noi stiamo per stappare una bella birretta, ma no, io. E spero che altrettanto state per fare voi. Siamo tutti quanti in tempo per rilassarci un attimo. Abbiamo anche le robine da mangiare. E quindi ciolini. Mancabili, noia per il primo. Spero che anche voi ne siate dotati, perché è molto curioso. Fata. Ok, allora mentre io e la Chiesi ci facciamo un brindisino e ci beviamo il primo bicchiere, vi metto su una canzoncina, vai, questa qua. Strada incantato, per qualche libretto che ho scordato, per qualche immagine senza traccia, quando stringevo un libro fra le braccia, per una lettera senza mittente, a morte trepidante fra le bombe, per qualche sera di malinconia, per qualche sogno che non ha via, per qualche canzonetta d'occasione, per qualche amore senza confusione, per qualche confusione senza amore, per qualche mese con il mal al cuore, con qualche desiderio mal riposto, per un bel po' di fumo senza arrosto, per un poco di arrosto senza fumo, per il ricordo vago di un profumo, per una vita che è quasi passata, per questo dovrei essere ricordata. Non penserò all'amico perduto, senza il coraggio di chiedere aiuto. Non penso alle mie persone care, che sono scomparse senza salutare. Per cui a sorseggiare un calice di vino. qualche marionetta, qualche verso, per qualche affetto, per qualche anno perso, per qualche gatto in strada raccattato, per qualche libro letto e poi scordato, per qualche immagine senza più traccia, quando stringevo un bimbo fra le braccia, per una lettera senza mittente, aperta trepidante fra la gente, per qualche sera di malinconia, per qualche sogno che è volato via, per qualche canzonetta d'occasione, per qualche amore senza conclusione, per qualche conclusione senza amore, per qualche attesa con il batticuore, per qualche desiderio mal riposto, per un bel po' di fumo senza arrosto, per un poco d'arrosto senza fumo, per il ricordo vago d'un profumo, per una vita che è quasi passata, per questo dovrei essere ricordata. Lai, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, e rientriamo sulle note che spero vi siano piaciute di Margo Galante Garrone, una voce fenomenale, una cantautrice, voce di tantissime canzoni anche anarchiche, storiche, registrazioni storiche, insomma vi invito ad andarla a vedere se non la conoscevate. E vai, dopo questa prima suggestione per l'inizio del nostro aperitivo, andiamo un po' a dirvi che cosa ci faremo oggi, con cosa nutriremo la nostra mente, oltre che la birra che nutre il nostro corpo. E volevo iniziare con una lettura. Intanto praticamente tutto quello che vi andrò a leggere oggi, un po' tutte le suggestioni che ho raccolto per questa puntata a redazione ridotta, vengono tutte da riviste indipendenti, fanzine, produzioni, insomma cartacee, che continuano a rimanere cartacee. Di tanti compagni interessanti, e questa è una cosa che mi piace molto supportare, è un tipo di produzione che io appoggio molto, e quindi vorrei partire leggendovi un articolo da Bolotov, che praticamente Bolotov a periodiche esplosioni di libero pensiero è una tre che alcune compagne, o forse loro preferirebbero compagno di Bologna, per questo Bolotov, hanno lanciato proprio come un progetto che è stato lanciato durante il periodo più cupo del delirio globale pandemico, e invitando individualità, gruppi eccetera a mandare contributi, e poi impaginando il tutto in un formato che è una tre piegato, e quindi proprio, come dire, pensato per la stampa clandestina, insomma, che ognuno, che insomma chiunque, insomma, lo potesse stampare in quantità buone, e gli sono arrivati contenuti di tutti i tipi, molto interessanti, anzi parlavo con loro qualche settimana fa e erano rimasti molto molto contento dalla quantità di contributi, e quello che mi ha colpito di più per ora, e che adesso vi volevo leggere, si intitola così: un'altra battaglia per gli Jedi, ovvero come evocare la forza ecosocialista rivoluzionaria intergalattica attraverso il gioco di ruolo. Allora, premessa: questo gioco è una metafora della nostra condizione politica reale. Usiamo una metafora perché presumiamo che affrontare la questione della costruzione di un blocco sociale rivoluzionario utilizzando il politichese forbito sarebbe molto difficile, lungo e annoierebbe a morte qualunque lettore, a parte i pochi maniaci amanti del genere. E soprattutto perché non sappiamo esprimerci in politichese forbito. Da Wikipedia, un gioco di ruolo, abbreviato spesso in GDR o RPG, dall'inglese Role Playing Game, è un gioco dove i giocatori assumono il ruolo di uno o più personaggi. E tramite la conversazione e lo scambio dialettico creano uno spazio immaginario, dove avvengono fatti fittizi, avventurosi, in un ambiente... in un'ambientazione narrativa che può ispirarsi a un romanzo, a un film o un'altra fonte creativa storica, realistica, come nella vita reale o di pura invenzione. Le regole di un gioco di ruolo indicano come, quando e in che misura ciascun giocatore può influenzare lo spazio immaginato. Questo gioco è liberamente ispirato all'immaginario prodotto dalla saga di Guerre Stellari di George Lucas, dal libro Il Signore degli Anelli di Tolkien e dal grande dipinto di blu sulla facciata di XM24, dipinto che non esiste più, così come il centro sociale in quel luogo. Come ogni gioco di ruolo che si rispetti, anche questo avrà una storia, delle istruzioni e una mappa. Storia, mappa e istruzioni costituiscono la scatola del gioco e saranno pubblicate via via, qui e dove capita. La storia. Capitolo 1. Una leggenda molto antica. Dicono che un popolo molto saggio e profondamente legato alla terra, i Dayak del Borneo, gente all'apparenza rude, dato che coi nemici ci faceva un particolare tipo di coppa di testa, narrino ancora oggi un'antica leggenda. La leggenda parla di un tempo in cui il popolo era grande e forte e le tribù si ritrovavano ogni 10 lune ai piedi del grande vulcano. Attorno al grande vulcano, i Dayak arrivavano a centinaia e centinaia, a piedi e in canoa, e andavano a costruire dei villaggi di capanne disposte a formare alcuni cerchi nella verde pianura che si stendeva tutt'attorno alla base del corno. Nei cerchi così formati, gli indigeni rimanevano a danzare al ritmo dei tamburi e a parlare per giorni, forse per settimane. Si parlava, si danzava, e la danza era alternata di interminabili discussioni. Ma cosa si dicevano? I Dayak del Borneo, così riuniti ai piedi del grande vulcano, parlavano un po' di tutto, del tempo, dei raccolti, dei nemici, di problemi sentimentali e di ricette su come insaporire la coppa di testa. Ma, soprattutto, parlavano dei problemi del popolo. E i problemi del popolo non mancavano. Gente che era rimasta senza capanna dall'ultimo ciclone ed era costretta a dormire all'addiaccio. Gli uomini bianchi che avanzavano nella giungla con potenti canne di fuoco, la selvaggina che scarseggiava ai pesci del fiume, che sembrava diminuissero sempre di più. Chi stringeva nel pugno il bastone della parola diceva, proponeva e provava a indicare soluzioni e possibili vie d'uscita, ma soprattutto cercava di averla vinta sugli altri, sciorinando analisi delle situazioni accurate e punti di vista originali, anche usando in modo improprio il bastone della parola contro chi criticava troppo. La discussione e le danze di intermezzo andavano avanti finché la grande maggioranza degli incerchiati non aveva maturato un'opinione condivisa su quel particolare problema. Era lo stato del consenso. Okay. Quando il consenso arrivava, dopo giorni, forse settimane di disamine estenuanti, allora iniziava la grande danza. Da quel momento i Dayak del Borneo liberavano la loro allegria in modo così forte. I loro salti erano così alti, le loro grida così spaventose che solo chi ha passato ore e ore in assemblea generale permanente sa di quale felicità stiamo parlando. E quando tutti i cerchi avevano raggiunto il grande consenso, allora la danza diventava totale e generale, diventava la grande danza. E quando la grande danza era il culmine, allora sembra, si dice, che il grande vulcano iniziasse a rimbombare. E più i Dayak danzavano insieme in un grande unico cerchio, tutto intorno al vulcano, e più il vulcano ruggiva finché nel culmine della danza, quando il martellare dei tamburi diventava rapidissimo e assordante, il grande vulcano con un gigantesco fragore esplodeva. Al grande rombo, i Dayak del Borneo scappavano veloci, lontano dalle falde del grande vulcano, ma non erano spaventati. Correvano ridendo, urlacchiando per le scottature, rigirandosi la testa dalla caduta delle ceneri e la pilli con le grandi foglie del banano. Perché dunque i Dayak del Borneo erano così allegri per aver fatto esplodere il vulcano? Solo i saggi lo sanno con precisione, ma una cosa è data di sapere alle persone ordinarie. I Dayak scappavano allegri per andare a fare quel che c'è da fare, adesso che tutti, dal piccino al più vecchio Dayak, sapevano precisamente quel che c'è da fare. Ora che avevano la forza per farlo. Diversi luoghi dell'universo. Adesso, 2220. Alcuni vecchi Jedi conoscono bene la storia dei Dayak del Borneo e del villaggio dei cerchi danzanti e capiscono nel profondo lo spirito della leggenda molto antica. Loro stanno osservando attentamente le stelle ruotare nell'universo e cercano di interpretare i segni dell'incrocio degli astri e delle costellazioni. Loro si connettono telepaticamente. Loro mandano a dire che è venuto il momento di costruire il nuovo villaggio dei cerchi danzanti. Molti hanno capito le onde telepatiche, altri hanno letto le mail e tutti stanno sul chi vive. Quando i vecchi Jedi indicano una strada, si sa che quella è la strada da seguire. Ma come incamminarsi ora che il grande morbo imperversa nell'intero universo? We'll be right back. Ok, volevo prima di ricominciare un attimo scusarvi con gli ascoltatori vari per i vari problemi tecnici. E sì, perché dovete sapere che quando sono arrivato alla regia di Frittole mi erano stati sciacallati dei cavi. Quindi siamo arrivati pronti carichi per fare il programma, ma attenzione, ai ai, alla mia inettitudine ai controlli si aggiungono anche inconvenienti tecnici di altra natura. Vabbè, ma so che voi siete comprensivi, ascoltatori e ascoltatrici di Radio Wombat, e avrete pietà di un povero e volenteroso conduttore come Beppe Manin. Comunque, volevo dire, questo mi dà l'assist però in realtà per dire che mancano dei cavi perché erano stati rubati per essere utilizzati e per una giusta causa. E questa giusta causa era il cinepizza che era stato fatto a Mondeggi ieri sera. Bellissimo. C'è anche te, no? Sì. Piaciuto? Partecipatissimo. Sì, sì. È stato proiettato un film, La donna elettrica, che per chi non l'abbia visto consigliamo. Io non lo conoscevo e devo dire che mi ha piacevolmente stupito. Sì, sì, è molto simpatico. Vabbè, è un film islandese, ma per chi non l'avesse visto non si faccia scoraggiare dalla provenienza. Di solito i film islandesi uno pensa, oh mio Dio, sarà una cosa stralenta, una cosa inguardabile. Non si capiranno le battute, sarà sì. Un'ironia freddissima. Poveri islandesi, quanta ingiustizia, quanto pregiudizio. Invece no, è un film molto carino, ha un ottimo ritmo, c'è un po' di surrealismo. È una cosa che mi è piaciuta un casino del film, a me più che la storia, bella la storia degli ecoterroristi, mi piace un casino. Però una cosa che veramente mi è piaciuta tanto era il montaggio audio. Sì, lo so, sono uno psicopatico del cinema, però era bellissimo il montaggio audio. Concordo. Le musiche, cioè per tutto il film c'è questa incursione filmica che però c'è surreale, insomma, cioè, tutta la musica viene da un piano surreale parallelo. Dico, ogni tanto compaiono gli attori, cioè i suonatori, diciamo, nel caso della musica, che fanno queste incursioni col mondo visivo del film, che non si capisce, poi comunicano tra di loro, ma tramite occhiate, sguardi, che non si capiscono bene, insomma, molto bello. Ah, poi è epica la storia in cui quel flex a batteria taglia i cavi d'acciaio giganti. Bellissimo, se si potesse fare sarebbe bellissimo. Però va bene. E, comunque ogni giovedì, ecco, ogni giovedì sera, se volete, venite, andate al Cinepizza a Mondeggi, che continuerà per tanto tempo, per tutta l'estate, a un prezzo strapopolare si potrà avere la pizza fragrante e vedersi un bellissimo film e starsene sciallati una sera. Potete venire anche a gratis, il cinema è libero. Ah sì sì. Poi se volete la pizza invece, vabbè, insomma, bisogna prenotarla. E trovate tutti i dettagli sul blog di Mondeggi, che è mondeggibenecomune.noblogs.org. I prossimi film si possono rivelare o sono ancora un mistero? No, sì, sì, si possono rivelare. C'è, allora, c'è giovedì prossimo, c'è Terra e Libertà di Ken Loach. E quindi, insomma, se non l'avete ancora visto, venite a vederlo, che, insomma, non è bene non averlo visto, ecco, diciamo così. E poi il giovedì dopo dovrebbe esserci La strategia della lumaca. È un film stradivertente, colombiano, di questi inquilini che si ribellano al proprietario di casa che vuole sfrattarli. Se invece avete voglia di parlare con noi adesso, potete scriverci potete scriverci e vi risponderemo nella nostra diretta del programma senza nome, che ancora non ha un nome, e, a frittole@gattini.ninja. Se volete insultarmi per la mia incapacità di stare ai controlli, fatelo. Se volete darmi dei suggerimenti su come farlo meglio, fatelo. Se volete mandarmi baci e abbracci, fatelo. Insomma, qualsiasi cosa. frittole@gattini.ninja. Eu sou do que tá tudo sem pensar. E o poder de Deus não vou fazer. Fiquei confuso. latini quest'oggi, eh? Sì, sì. No, dai. Ho preparato un po' di... un po' di canzoncine bossa noviste, che spero vi piacciono. Allora, la seconda, il secondo contributo che volevo, che volevo, volevo leggere non è altro che l'editoriale dell'ultimo numero della rivista Nunatak. Nunatak è una, è appunto una, è una rivista che è giunta al suo 56esimo numero. E questo vuol dire che, siccome esce ogni 3 mesi circa, sono tipo 15 anni che esce. E da un punto di vista veramente partigiano, parla della montagna, parla dei territori, parla di vita autonoma, parla insomma, di comunità, parla di rivoluzione, in maniera molto seria. Io la seguo da tanti anni e veramente non posso che complimentarmi per l'ottimo lavoro che la redazione di Nunatak svolge da tanti anni. E poi una di quelle riviste che, come dicevo inizio trasmissione, cioè una di quelle robe che continua a uscire cartacea. E per me, che sono un feticista del libro, è una cosa che piace tanto. Quindi c'è, la trovate anche online, tutti i numeri della rivista, in PDF. Ma soprattutto è una rivista che gira e magari nei paesi di montagna, magari nei paesi dove vivono i redattori, i contributori, gente che c'è dietro. Cioè, insomma, è una rivista che viene molto usata per fare un certo tipo di lavoro politico nei territori. Per cui in certi territori, magari dove sono già presenti delle comunità, delle persone che portano avanti delle pratiche ci piacciono, di autonomia, di critica all'esistente, gira tanto questa rivista, perché appunto parla e dà forza, sono le parole, di queste pratiche. L'editoriale che volevo leggervi si riferisce anche questo al periodo, diciamo, della chiusura a causa Gran Malanno, per cui è leggermente datato, ma è una delle riflessioni più interessanti e comunque che mi evoca un po' più di suggestioni, e forse anche perché non scritta a caldo, su un po' di questioni tuttora comunque ancora pienamente che fanno parte della nostra quotidianità, nonostante sembra che tutto vada a tornare a una normalità. Mentre la vita reale, per chi sta rinchiuso in casa, sembra rallentare, come per chi è detenuto, la vita virtuale accelera, macinando ogni minuto un nuovo imperdibile bollettino di guerra. Noi invece, noi della rivista Nunatak, continuiamo a uscire ogni stagione, su carta, come sempre. Una scelta che rivendichiamo senza sindromi di inadeguatezza. Crediamo, tanto per iniziare, che tempo e spazio per ragionare non siano mai un lusso, che libertà d'azione e di parola non siano barattabili con nulla, neanche con fantomatiche salvezze, a meno di non voler rinunciare a vivere per paura di morire. Non è facile provare a ragionare con lucidità di ciò che sta accadendo in seguito alla diffusione del coronavirus, bombardati come siamo da un morboso bollettino di aggiornamenti, numeri, opinioni, dati, in cui l'ora è qui diventa assoluto, incomparabile, astorico. Come in guerra non c'è spazio per il dubbio. Un'isteria collettiva, nazionalista e cameratesca, che si pensava relegata ad altri tempi, si rimpossessa di folle solitarie, pronte a diventare carne da macello. Fece un sacco questa espressione qua, delle folle solitarie. Prima molto bene. L'antidoto a questa superstizione di massa è una questione di igiene mentale. Si può trovare soltanto staccando la spina dalla bulimia di informazioni e opinioni just in time. Il problema non è, perlomeno in questa sede, disquisire sulla pericolosità e gravità di questo virus, così come dell'efficacia o meno di ogni nuovo divieto o provvedimento statale. Il problema è innanzitutto riconoscere che siamo in balia di un gigantesco apparato di millantatori, pseudo sacerdoti che non sanno un bel niente. Le teorie microbiche, infatti, seppur universalmente riconosciute, non tornano. Perché, ad esempio, alcuni individui si ammalano e altri no? Perché alcuni guariscono e altri no? Perché le epidemie si diffondono in alcune zone più che in altre? Perché regrediscono spontaneamente? Difficile rispondere. Se i malati sono concepiti come passivo terreno di conquista per agenti stranieri contro i quali lo Stato ha l'improbabile compito di proteggerci con divieti, soldati e frontiere. Alla base dei differenti comportamenti dei soggetti viventi c'è un insieme complesso e inafferrabile di fattori in cui sfuma la distinzione tra il soggetto e l'ambiente circostante. Alimentazione, sovraffollamento, povertà, inquinamento, radiazioni, intossicazioni, stress, gioia, traumi, fenomeni pregressi, perturbazioni psicoemozionali. Si tratta di un sistema mondo, qualcosa di molto più potente della somma dei suoi singoli elementi, un universo misterioso inevitabilmente rimosso dalla scienza medica attuale. Non soltanto perché esula dai suoi paradigmi interpretativi e dalle sue pratiche, applicare protocolli in serie su batterie di pazienti inermi, ma anche perché sollevare quel velo porterebbe inevitabilmente a mettere in causa l'intero sistema tecnico-industriale, che è alla base dell'avvelenamento ecologico-sociale in cui siamo, e con esso la sua ragione di esistere. Saremo dei sempliciotti e saremo senz'altro accusati di invadere campi di sapere che non ci competono. Ma una domanda ci sorge spontanea. Non si è forse perso di vista il tutto, a forza di andare sempre più a fondo nel particolare? Davvero pensiamo che ci salveranno schiere di ricercatori curvi a osservare particelle sempre più microscopiche sui loro vetrini, quando alle loro spalle continuano a giganteggiare distese di monoculture industriali, allevamenti intensivi, miniere a cielo aperto, raffinerie, centrali, discariche di rifiuti tossici, eccetera. Applicando meccanicamente i protocolli di questo tempo, in questa società, costoro non solo non ci salveranno dal virus, ma continueranno a rinfocolare il modo di vivere che ne è all'origine. Da questo punto di vista, la scienza medica attuale si può tranquillamente definire come una gigantesca superstizione, e oggi, nell'attuale emergenza globale, come una gigantesca superstizione che non funziona. Perciò i governi di tutto il mondo hanno affidato task force composte da manager, tecnici e militari il compito di farla funzionare per forza, grazie all'applicazione delle loro migliori conoscenze. In una civiltà che avesse ancora un minimo di capacità critica e precauzioni di buon senso, tutti questi impostori starebbero penzolando nelle piazze come nemici della salute pubblica. La vera emergenza è che dobbiamo riappropriarci del potere di decidere delle nostre vite e, non meno importante, delle nostre morti, anche e soprattutto in momenti come questo, e non per un'idea astratta di libertà individuale, ma per una questione di salute e sopravvivenza individuale e collettiva. Il vero nemico, il morbo più insidioso, è la dipendenza da un sistema statale, economico, produttivo, sanitario, burocratico, che lungi dal salvarci, non fa che indebolirci, come singoli e come società, predisponendoci ai prossimi inevitabili disastri e pandemie. Una società come quella in cui viviamo, perennemente terrorizzata dal crollo e dalla morte, rivela oggi di non avere, neanche idealmente, alcuna alternativa praticabile di fronte al pensiero unico e alla sua organizzazione sociale. La novità di questi giorni non sta nel fatto che si usi lo stato d'eccezione. Questo è da tempo diventato la norma. Basti pensare alla gestione dei terremoti in centro Italia. Semplicemente i nostri governanti non hanno più altri argomenti. Il fatto, per certi versi, è inedito e ricco di potenzialità. Questa società è costretta a mettere in campo interventi che mettono in crisi il suo stesso funzionamento. Una società globale fondata su flussi continui di persone e merci e che non può far altro che bloccare tutto e chiudere in casa semplicemente non può durare. È destinata a crollare e in fretta. Atrapalhando o tráfego. Amor daquela vez, como se fosse o último. Beijou sua mulher, como se fosse a única. Como se fosse o pródigo e atravessou a rua com seu passo bêbado. Subiu a construção como se fosse sólido. Ergueu no patamar quatro paredes mágicas. Tijolo com tijolo num desenho lógico. Seus olhos lotados de subir em tráfego. Sentou pra descansar como se fosse um príncipe. O meu feijão com arroz como se fosse o máximo. Bebeu e soluçou como se fosse máquina. Dançou e gargalhou como se fosse o próximo. Contramão atrapalhando o público. Gli scenari che si aprono possono essere appassionanti. Non abbiamo sempre detto e urlato che dobbiamo farla finita con il mondo della merce e dell'autorità, perché questo sistema malato, iniquo e insensato ci sta portando dritti nel baratro? Allora forse questo è il tempo di finirla con le lamentele sullo stato di pulizia, sulla spietatezza dei padroni, sulla mala sanità. Forse è giunta l'ora di organizzarsi per costruire altro. Non sarà immediato e non sarà indolore. Ma quale altra possibilità abbiamo? Della fiducia nel progresso, del resto, possiamo ormai parlare al passato. Anni fa, un compagno bretone scriveva: di tutti gli idoli che ho conosciuto, l'uomo sarà quello del progresso moderno, della tecnica, che cadrà dagli altari col più tremendo fragore. Oggi il fragore di quel tonfo ce l'abbiamo alle spalle. Possiamo avvertirne l'eco nel silenzio delle metropoli deserte. Un silenzio per ora indecifrabile, perché finora l'Occidente ha retto sull'assunto, non detto, ma palese, che il livello di vita e di consumi del cittadino medio occidentale è di gran lunga preferibile a quello di tutte le periferie del mondo, in cui vengono rapinate le risorse che lo garantiscono. E dove si muore ogni giorno, a decine di migliaia, e certo non all'età media di 80 anni, di dissenteria, malnutrizione, malaria, parto, tubercolosi, senza che sia dichiarata nessuna emergenza. Guerre, fame, carestie, inquinamento, pandemie sono i costi esternalizzati del benessere dei più ricchi e delle loro libertà, che soltanto le guerre e gli eserciti sulle frontiere possono garantire. Ora che le frontiere si sfaldano, che le pandemie arrivano da noi in business class, che gli eserciti sono sotto casa nostra e sono lì per noi, che la virulenza dell'iniquità dilaga anche nelle nostre metropoli e fin dentro le nostre gole, siamo ancora sicuri che ne valga la pena? Questa è la domanda, perché finora la baracca ha retto, perché in Occidente la risposta è stata sì, ma ora? Ora i soldati sono nelle strade, presidiano i supermercati. Fuori dai templi del consumo si formano code rassegnate alla propria frustrante dipendenza. Quella che molti scambiavano per libertà, cioè la possibilità di acquistare qualsiasi cosa, a qualsiasi ora, si rivela ora per ciò che è, una paurosa dipendenza. Basterebbe che, per un motivo qualsiasi, si interrompessero i flussi di petrolio e le città rimarrebbero senza cibo. Cosa faremo allora? Come potremo combattere un sistema da cui siamo al tempo stesso nutriti e avvelenati? Ciò che è divenuto chiaro in tutta la sua tragicità è che siamo sostanzialmente dei polli in batteria, nutriti da flussi di merci ed energia che non controlliamo, e che quelli che frettolosamente avevamo liquidato come non luoghi, i supermercati, non sono solo i veri templi di questa civiltà impaurita, sono anche i suoi capisaldi strategici da proteggere militarmente. Senza di essi, senza gli allevamenti intensivi, le monocolture, le biotecnologie, la produzione industriale di massa, non solo la società concentrazionaria metropolitana non potrebbe esistere. Non potrebbe esistere la quotidianità a cui ci hanno abituato, ci piaccia o no. Nessuna verniciatura di green potrà nascondere il bivio in cui siamo. Bisogna cambiare rotta. Del resto, le cause dell'epidemia, al di là dei dibattiti tra esperti, sono abbastanza evidenti. La violenza fatta sulla natura sta tornando al mittente, ed è difficile stavolta dare la colpa agli immigrati coi barconi, o a quelli che vogliono tornare ai tempi delle caverne. Bisogna affrontare alla radice i miti in cui si fonda la civiltà attuale, la sua idea di scienza e di progresso, il gigantismo e l'urbanizzazione, l'accumulazione e l'estrazione, i rapporti tra viventi che ne conseguono. Ma per farlo è necessario avere una base materiale da cui partire, altrimenti non ci resterà che mugugnare e poi rimetterci in coda per la quotidiana razione di veleni e di bugie. Per una volta il significato della vita che vogliamo, e soprattutto di quella che non vogliamo, il senso delle nostre scelte, delle nostre lotte, è diventato intuitivo, diretto, chiaro. Approfittiamolo. Su Nunatak abbiamo sempre parlato della montagna come spazio di relativa libertà. Spesso abbiamo messo l'accento sul termine relativa, per sottolineare quanto le montagne non siano immuni dall'influenza della metropoli e dalla loro colonizzazione. Oggi, di fronte al delirio che si vive nelle città, non possiamo non mettere l'accento sul termine libertà. Pur con tutte le cautele, non possiamo non cogliere quanto sia in atto una vera e propria frattura territoriale. Luoghi con conformazioni geografiche e forme di vita differenti stanno affrontando il lockdown in modi diversi. La situazione vissuta nelle aree urbanizzate di tutto il mondo non è la stessa di territori con geografie e tipologie di insediamento umano più decentrate, tipo borgate di montagna di poche decine o centinaia di abitanti. Qui una vita e un'economia di villaggio, dove ancora resistono, rispondono innanzitutto ai ritmi della terra e delle stagioni, ai bisogni propri più che al commercio. Hanno permesso agli abitanti, volendo, di vivere questo allarme con maggiore serenità, seguendo pratiche di buon senso, senza rinchiudersi in casa per rispettare divieti assurdi. quello che ha risuonato da più parti, da contatti con amici e compagni, lettori o vicini di casa, è che generalmente, nei luoghi in cui già esistevano progetti collettivi, relazioni, esperienze basate su rapporti di reciprocità, insomma, dove non si è partiti da zero, la collettività di amici, di compagni, di vicini, si sono mantenute addirittura rafforzate grazie al maggior tempo a disposizione e al fatto di doversi occupare, volenti o nolenti, di tante attività quotidiane prima soddisfatte tramite il denaro e gli esercizi commerciali. Se la geografia dei luoghi ha sicuramente un peso, dunque, ancor di più ne ha l'esistenza di forme, seppur embrionali, di organizzazione e di autonomia. Gli esperimenti e rapporti tesi a costruire già da ora il mondo che vorremmo veder sorgere domani. E ciò vale ovviamente tanto per le borcate montane che per le aree rurali o i quartieri delle città. In generale, possiamo dire che in montagna i progetti e le attività non si sono affatto fermate. Anzi, ci risulta che non siano pochi quelli che hanno vissuto questo periodo come una vera e propria boccata d'ossigeno. Quello che si è fermato, ovviamente, sono le attività salariate ed eterodirette. Chi lavora in città, nelle fabbriche della bassa, nel turismo, eccetera. Cioè tutte quelle attività che hanno espropriato la montagna e i suoi abitanti della loro autonomia e con essa della loro identità. È un'indicazione preziosa. Accanto alle opportunità non mancano e non mancheranno i problemi che già possiamo intravedere. Il fatto di essere luogo più vivibile e salubre farà diventare la montagna più attrattiva, rifugio per quei cittadini che se lo potranno permettere e quartiere dormitorio per stuoli di lavoratori. Tornerà ad essere meta turistica privilegiata rispetto ad altre più esotiche, con conseguente rincaro degli affitti. Aumenteranno le persone che vi ritorneranno ogni sera dalla città, magari con veicolo proprio, per evitare contatto con altri o perché i trasporti pubblici non saranno ripristinati. Quanto verrà accelerato l'impianto delle più moderne tecnologie, come il 5G, per aumentare la capacità di trasmissione dei dati informatici? Cambieranno le condizioni di lavoro per gli stagionali? Sono tendenze probabili, ma nulla è scritto. Si tratta come sempre di un conflitto, in cui a decidere saranno i rapporti di forza che sapremo mettere in campo. Da un lato non possiamo non affrontare i problemi quotidiani, soprattutto economici, che tutto ciò comporta per molti di noi e dei nostri vicini. Dall'altro, ciò non ci deve impedire di riafferrare il senso più generale della frattura in corso. La malattia e la perdita di autonomia a vantaggio di una società pestifera e concentrazionaria. E il rimedio c'è, come? Incominciare a liberarsene. Ora. Jura. Del resto, quali altre prospettive abbiamo? Se possiamo comprendere i motivi strumentali o di necessità di fronte all'emergenza, che hanno portato molte persone a promuovere forme di solidarietà per consegnare ai vicini le merci dei supermercati, crediamo che una riflessione autocritica sia quanto mai necessaria. Dopo anni di slogan come blocchiamo tutto, fermiamo i flussi di merci, oggi che questo accade, e non certo grazie a noi, diventa evidente la schizofrenia di dire una cosa e trovarci a fare il suo contrario. Tutto questo deve dirci qualcosa. Non ci parla forse del ritardo con cui arriviamo ogni volta ai presunti appuntamenti con la storia? Non ci sbatte forse in faccia la necessità di decidersi a riempire questa impreparazione, invece di sfinirsi a rincorrere emergenze che ci lasciano ogni volta sempre più impreparati per la prossima? Ciò non significa, sia chiaro, appartarsi in qualche margine o periferia, a riempire granai in attesa del fantomatico momento buono. Al contrario, significa farla finita con l'attesa, colmare lo scarto che ci fa vivere sempre in attesa di qualcosa al di là da venire. Il futuro non c'è, non c'è mai stato e non ci sarà. È solo una maledetta trappola che ci espropria del nostro presente e del nostro passato. La liberazione futura sarà sempre, per definizione, di là da venire. E il presente, un eterno cimitero di speranze disattese. La libertà è il cammino, dice una canzone occitana. La meta è il viaggio, dice l'antico detto taoista. La rivoluzione è oggi, e non soltanto perché comincia ora, nella quotidianità, come processo che colma le nostre lacerazioni, ma anche perché la catastrofe c'è già stata e il diluvio è in corso. La rivoluzione non sarà la presa del palazzo d'inverno. La rivoluzione è il processo storico che sta sgretolando una civiltà e generando qualcos'altro, quello che stiamo vivendo. Quello che facciamo sta a noi provare a far sì che prenda una direzione piuttosto che un'altra. L'emergenza attuale ce lo sta dicendo chiaro e tondo. Costruire autonomia, relazioni di equità e reciprocità, capacità materiali, non è solo indispensabile in vista dei conflitti a venire, ma è nello stesso tempo l'unico modo per sopravvivere al presente. La catastrofe è ogni giorno, e ogni giorno sono le opportunità, le crepe, le occasioni. Potremo coglierle solo se avremo la forza, la presenza, l'organizzazione, la rete di relazioni, di energia, di strumenti e di conoscenze necessarie. Le occasioni sono tali solo se c'è qualcuno che le coglie. Se no, non sono neanche occasioni perse, non sono niente. Dobbiamo trasformare le nostre ferite in feritoie, prima che sia troppo tardi. Ma come fai quando tu sei bambino a prendere coraggio e fede nel destino? Se papà ti mette per castigo al buio, poi di notte a letto, zitto che c'è il lupo, zitto che c'è il lupo, zitto che c'è il lupo. E la mamma dice chiamo l'uomo nero, chiamo il babau, ti mangia tutto intero. Nella notte scura ti fa la puntura, ti fa la puntura, ti fa la puntura. Ma passa per il buio senza paura. Passa per il buio senza paura, ma passa per il buio senza paura. Poi all'improvviso ti arriva l'età di amare follemente l'uomo che non va. Non c'è via d'uscita né di qua né di là. Tuo padre griderà, tua madre pregherà, tua madre pregherà, tua madre pregherà. L'amante poi si butta giù dal fabbricato, perché quello che è facile diventa complicato, dato che la vita è dura, che la vita è dura, che la vita è dura. Ma passa per l'amore senza paura. Ma passa per l'amore senza paura. Ma passa per l'amore senza paura. Del gioco, tu non facci caso se non vivi poco, tieni sempre duro, comincia di nuovo, comincia di nuovo, comincia di nuovo. anche per la strada ti sta rischiando, stai sopra pensiero, stai rimuginando, passa la vettura della spazzatura ed il conducente aumenta l'andatura, aumenta l'andatura, aumenta l'andatura. Ma vai per la tua strada senza paura, ma vai per la tua strada senza paura, ma vai per la tua strada senza paura. Ed un bel giorno di qualunque settimana, ed un bel giorno di qualunque settimana, battono la porta, battono la porta, è un telegramma, lei ti sta chiamando, è un telegramma, lei ti sta chiamando. Per uno viene presto, per l'altro tardi, comunque presto tardi, tranquilla e sicura, viene senza avviso, viene ti cattura, viene ti cattura, viene ti cattura. Ma passa per la morte senza paura, ma passa per la morte senza paura, ma passa per la morte senza paura, ma passa per il buio senza paura, ma passa per l'amore senza paura, ma va per la tua via senza paura, ma passa per l'amore senza paura, senza paura. Ed eccoci qua ritornati. E dopo questa, dopo la lettura dell'editoriale di Nunatak, boh, cioè, spettacolare, mi ha spaccato proprio quando l'ho letto. E anche un po' a proposito di quali sono le pratiche del quotidiano che mettiamo in campo per cambiare l'esistente. E qua a Firenze c'è una piccola cosa che mi piace tanto sponsorizzare, che è il mercato contadino di Piazza Tasso. E come qualche venerdì, anche oggi abbiamo sguinzagliato i nostri inviati speciali dal mercato, nella forma di Lidia. Ci senti, cara? Ci senti qualcosa? Vediamo, vediamo se sono in grado di far funzionare la telefonata. Pronto? Presumo che non mi sentano. Non so. Vabbè, adesso proveremo questo problema tecnico. Pronto? Ci senti, cara? Tanto tutto, voi? Dai, purtroppo perché c'ho un telefono troppo vecchio per funzionare con i sistemi moderni. Quindi adesso facciamo alla vecchia, insomma, col viva voce. Dovrebbero sentirti. E tante, mi sentite? Buonasera a tutte. Ti sentiamo? Sì, sì, dai. Dai, ottimo. Allora, siamo qua, venerdì. E il mercato è già stato chiuso perché ci siamo sentiti tantissimo. E quindi non potrò fare l'inviata speciale, però stanno succedendo una serie di cose interessanti in città e magari tu e te parliamo insieme un attimo. Dai, sì sì, dici tutto. Ma insomma, ci stanno muovendo varie cose, sono tante varie robe, insomma. E diciamo, vabbè, come sapete, è vero che sono un'inviata, ma insomma mi occupo più che altro di donne, femminismi, transfemminismi, acrotransfemminismi e femminismi dappertutto. E quindi praticamente così sono stati in particolare un episodio molto pesante 2 settimane fa. C'è una nostra cara compagna di Dio del Leone che si sta occupando negli ultimi mesi in modo molto molto importante del Banco Alimentare di Via del Leone, di Lazzarno, e la distribuzione dei pacchi alimentari. Sì, sta andando a fare il recupero per l'umido, da mettere insomma le cose fresche dentro i pacchi, e insomma ha avuto un episodio molto brutto di molestia e stalking, e quindi da lì sono partite una serie di riflessioni che sono appunto settimana scorsa, prima del mercato, sempre in tasca, in una sorta di passeggiata dentro il quartiere di San Frediano, che insomma è un po' il nostro quartiere di riferimento in città, su come vanno magari anche tante altre cose intorno alla città. E questa cosa ha creato una di donne, da giovanissime, ricchissime, mi fanno veramente vecchia stare con loro. E, però oggi ci siamo diviste. E, insomma, sono molto agguerrite, sono molto belle, molto fresche, con un sacco di idee, cose mi venivano in mente tante cose di tanto tempo fa. Sempre un po' con questa forza, come dire, dell'amore verso la forza della gioventù, non so come chiamarla, insomma, dell'amore verso la verità, verso la giustizia. E niente, io quello che potevo fare l'ho fatto, nel senso che dopo la meditazione in chat le ho regalato a livello collettivo simbolicamente un piano di non una di meno. Ernesto, abbiamo un piano che abbiamo scritto da tante donne anni fa, adesso andrebbe stato anche un po' riaggiornato da delle parti, perché ci ho detto insomma trovo interessante che magari potete confrontarvi con chi da 4 anni insomma sta andando avanti con un movimento globale, ha fatto delle riflessioni sulle molestie, sulla violenza delle donne in modo capillare, e quindi mi sembrava importante donarglielo, anche se io poi a livello personale penso che più collettivi femministi, più di differenze di femministi ci sono, più ricchezza c'è, quindi insomma lungi dal me da convincere qualcuno a venire a donarmelo. Certo, quindi questo qua insomma è un gruppo di donne che molto molto che giovani, si è trovata più o meno legate al quartiere o in qualche modo, magari non tutti ci vivono, però legate a San Frediano, tanto spirito, Don Sarno, diciamo, e alcune molto legate a Via del Leone, in particolare questa ragazza mi aveva anche un po', diciamo, di lasciare Via del Leone, ma si era molto impegnata nel suo banco alimentare, ha avuto questo episodio orribile al mercato, cioè accanto alla porta di San Frediano tutti i giorni trovavano degli accordi per prendere sempre solite cose, insomma, così generale generico. Quindi quello come ti vesti non va bene, perché allora mi hai chissà quale desiderio, io non lo posso controllare perché sono un tipo sanguigno, vabbè, poverini questi uomini. E quindi sì, insomma, quindi praticamente noi riteniamo che sia un episodio molto molto grave, e penso che insomma sia molto bello che ci sia stata una solidarietà collettiva, che questa cosa abbia un po' anche aperto un vaso di Pandora in cui insomma in qualche modo come dire tante ragazze stanno parlando, stanno dicendo tanti episodi, oggi è fuori a tutti la settimana di cose che magari se non abbiamo un ambito così con amiche, con altre donne, comunque si affrontano più di mezzo perché sono alla fine del giorno, e invece magari così le parli per capire cosa fare, cosa stanno pensando a fare dei volantinaggi mirati in cui fare delle domande a lei e a lui. Hanno fatto un bellissimo volantino che magari gli fai di dito, ne parliamo le prossime volte, molto bello, hanno considerato uno il volantino per lui e uno il volantino per lei. E quindi magari ve lo giro, ora mi sembra un po' lunga leggerlo perché insomma siete anche voi in chiusura di trasmissione, non voglio... Ancora, sì, ancora un pochino adesso, infatti adesso tra poco, dai. No, comunque tutta, ovviamente tutta la nostra solidarietà va alla compagna, e comunque benissimo che insomma c'è stata una risposta, si è risposto anche con determinazione, magari ad alcuni questa può, quello che è successo può sembrare una piccola cosa, non lo è, ed è ottimo invece che si continuino a scoperchiare insomma queste vasi di Pandora continuamente, che vengono a emergere queste situazioni qua, e hai anche questo, che questo insomma succede sempre nella quotidianità, insomma normalmente, che diventa una pratica normale. Esatto. Va bene. Sì. Dai. E per chiudere volevo solo dire 2 cose velocissime. Sì, una, vai. Insomma, che è una cosa molto personale, ma io sto riflettendo sempre di più dell'esigenza molto forte, la dico anche in Wombat pubblicamente, che si crei un ambito, un collettivo, un momento di riflessione, magari anche mensile, magari anche aritmico, di soli uomini che riflettono su che cos'è la virilità nella contemporaneità e come se la gestiscono tra di loro, dove anche poter recapitare uomini che continuano a picchiare le donne o a praticare violenza su altri uomini che non sono etero. E poi insomma, questo è un appello che io sto facendo un via torvi dovunque vado, perché non ne posso più, perché penso che, come dire, il problema vada affrontato anche alla sua origine, che compreso che cos'è che sta, per dov'è che nasce tutto lo studio verso le donne, per arrivare a 15 femminicidi durante il lockdown, per arrivare a tutte le molestie e le violenze, stalking, anche quotidiani, vediamo sul posto di lavoro, nella quotidianità, eccetera. E poi l'altra cosa che volevo dire è che c'è questo progetto, che chi si vuole informare può entrarci in contatto, dove tante donne ci stanno vedendo il giovedì alle 18, una volta ogni 15 giorni, la sala per tutte, e insomma è comunque per tutte le attività non conformi e antipatriarcali, e quindi insomma è un percorso che ha appena avuto solo un incontro zero, diciamo così, dove il prossimo ci vediamo alle 18, e quindi insomma io spero che questa cosa possa fare un percorso bello, espansivo, gioioso, illuminato. Va bene. Grazie mille. Dai. Sì, sì, è grande. No, per il gruppo di uomini mi piacerebbe un sacco dirti che accolgo la proposta, che anche a me interesserebbe. Insomma, però è una cosa veramente difficile. Mi rendo conto. Un percorso da costruire è stra difficile. Sì, sì. No, vabbè, lo farò, lo faremo, dai. Dai, bellissimo, sì. Mi si apre il cuore, avrei questa notizia. Dai, allora un abbraccio forte, ci vediamo prestissimo, come sempre. Ciao Lidia, grazie mille. Ciao, grazie. Ciao, buona serata. Ciao, ciao, ciao. Tu pensavi che ci stessimo riscaldando, che non facessimo sul serio, vero? Sì. È incredibile. Non può essere vero. Quel moccioso pensava che non facessero sul serio. Povero illuso. Sei così ottimista che tutti ti infamano? Credi che al peggio non ci sia mai fine. Ti lasci dolcemente cullare nel... O il futuro è già impresso chiaramente nella tua coscienza. Sei in contatto con ogni universo parallelo? O il tuo cervello è l'unico mondo possibile? Se proprio questa realtà ti doveva toccare, corri subito a prendere carta e penna. Impasta le tue meningi, lucida la sfera di cristallo, ascolta la sinfonia dell'infinito. Aggrega qualunque altrimenti in un unico adesso e spiegaci che po***o potrebbe succedere ancora. Dai ascolto alle tue più deliranti premonizioni, alle tue più razionali previsioni, o dici semplicemente quale scenario ci aspetta per il futuro. A questo punto scrivi il tutto in una lingua comprensibile e invialo a distopie@esiliati.org. Ogni venerdì dalle 19 alle 21 leggeremo i testi e assegneremo ricchissimi premi. I premi verranno assegnati in maniera completamente casuale e contro qualunque competizione. Se non l'avete ancora capito, vogliamo leggere in radio cose deliranti scritte da voi. Adesso vai, figliolo. Devi riportare la pace sul nostro pianeta. Ebbene sì, è arrivato il momento più atteso da voi ascoltatori e ascoltatrici, come sappiamo, il momento del concorsone letterario. Pensavate che ci fossimo dimenticati, pensavate che nessuno avrebbe più inviato nulla, e invece il concorso è ancora aperto, sebbene agli sgoccioli. Agli sgoccioli, quindi affrettatevi con le vostre penne e le vostre tastiere per dare sfogo alla vostra fantasia, che sicuramente avrà ancora molto da dirci. Ebbene, ci è arrivato un altro racconto che sarò lieta di leggervi. Sì, e così inizia. Diario di resistenza. Nodo Selenia, 10 giugno 2073. È cominciato tutto all'inizio del 2020. A quel tempo avevo poco più di 20 anni. Il batterio era arrivato dalle nostre parti, in quella che a quel tempo era ancora la Repubblica Italiana, in anticipo rispetto alle altre nazioni europee. Dicevano provenisse dalle fosse biologiche, dai nostri liquami dunque, ma già a quel tempo la notizia non convinceva molti di noi. La classe politica aveva dato prova per l'ennesima volta della sua inettitudine di fronte alla portata della pestilenza e per tentare di mascherare la sua sete di controllo si impegnò sin dall'inizio ad insinuare in noi il senso di colpa e ad addossarci ogni responsabilità riguardo alla contaminazione. Tutto ciò che era vivo era potenziale terreno di riproduzione per il batterio. Dovevamo dunque sterilizzare tutti i rifiuti organici, i giardini di casa, le acque di scolo, persino i nostri corpi. Iniziavano già a circolare le prime voci sulla vera origine del batterio, non fra le notizie ufficiali, ovviamente. Esso, come si scoprì con certezza alcuni anni dopo l'istituzione della rete, proveniva dai laboratori della Sinic, il grande colosso dell'acqua in bottiglia, che l'aveva creato per contaminare l'acqua delle falde. In questo modo avrebbe costretto tutta la popolazione ad acquistare l'acqua confezionata, depurata dai suoi impianti. Il batterio però non colonizzava solamente le acque, ma anche i terreni, rendendoli infertili e indebolendo le colture. Colonizzava anche i corpi umani ed animali, ammalandoli e rendendoli così portatori dell'infezione, veicoli della contaminazione. Fu così che iniziarono a distribuire disinfettanti sotto ogni forma. Le più terribili erano queste pasticche che eravamo tenute ad ingurgitare per eliminare il batterio dai nostri corpi e dall'ambiente. Ad ogni ora del giorno Pubblicità Progresso sulle TV nazionali invitavano ad assumerle giornalmente, per il vostro bene, ma soprattutto per il bene di tutti. Effetti collaterali? Apatia, depressione, sfiducia nel resto dell'umanità, disturbi del sonno, intolleranza alla luce del sole, frequenti sensazioni di pericolo. Fu così che le persone iniziarono a chiudersi in casa, uscendo solo di rado e nei giorni nuvolosi. Camminavano come se indossassero un paraocchi e si ritraevano spaventate quando chiunque violasse il loro perimetro di sicurezza. Inizialmente la cura era su base volontaria. Nel 22 divenne però obbligatoria, in quanto il batterio non dava segno di volersi ritirare. Anzi, molti suoi compari ancora più nefasti alla vita umana comparivano di anno in anno sotto i microscopi degli scienziati e davano così lavoro ai giornalisti, che infarcivano le loro pagine di notizie allarmistiche, seminando il panico fra le persone. Il governo dunque iniziò a controllare l'assunzione di queste pillole con i test delle urine. Se risultavi negativo alle analisi, perdevi ogni diritto sociale. Niente tessera sanitaria, niente patente, niente contratto della luce, niente internet, trasporti pubblici, nemmeno la scuola per i tuoi figli. Insomma, rimanevi escluso dalla società. Pensavano che tutto ciò avrebbe scoraggiato le persone a infrangere queste misure, ma questo non fece altro che incentivare il boicottaggio e a far nascere in noi il bisogno di decidere una volta per tutte da che parte stare. Molti di noi se ne andarono dalle città e iniziarono a ripopolare le montagne, cercando di ricominciare da capo e ricreando piccole comunità autosussistenti per poter fare a meno della società. Purtroppo però rimanevano sempre, in parte, dipendenti dal sistema e dal denaro, per tutto ciò che l'industria produceva e che era essenziale al loro benessere. Dalle città rimanemmo sempre in stretto contatto con loro negli anni della resistenza, preparandoci da un lato e dall'altro a rovesciare il sistema vigente. Iniziammo dalla ricerca clandestina. Riunimmo tutti coloro che ancora non erano stati sopraffatti dall'apatia o dalla depressione ed organizzammo un bollettino per condividere le nostre ricerche. Il bollettino veniva trasmesso attraverso la radio tutte le settimane, sulle frequenze dimenticate, quelle che più non interessavano al mercato delle pubblicità. I potenti non avevano pensato ad esercitare il loro controllo su di essa. Erano convinti, evidentemente, che internet avesse già soppiantato tutte le altre forme di comunicazione. Iniziamo a scoprire modi naturali per combattere il batterio, sperimentandoli su noi stessi. Le bucce di moltissimi ortaggi, per esempio, aiutavano la nostra flora batterica a soppiantare l'ospite indesiderato. I dissidenti delle montagne coltivavano il buon cibo per farci stare meglio e ci rifornivano di vere medicine. Lì l'acqua scorreva ancora pura e incontaminata e si poteva fare a meno delle sementi geneticamente modificate che già erano in commercio per sostituire le sementi antiche, vulnerabili al batterio. Quelli nelle pianure, intanto, sperimentavano colture di canapa per decontaminare i terreni, ottenendo ottimi risultati. Attraverso la radio mandavamo anche in onda musica, leggevamo racconti, facevamo ballare le persone e tentavamo di mantenere alto l'umore di chi ancora aveva voglia di accenderla. Gli anni passavano e le cose continuavano a peggiorare. La terra si stava surriscaldando a ritmi sempre più elevati. Cicloni, siccità e piogge torrenziali devastavano i territori e rendevano sempre più difficile la vita dell'essere umano sulla terra. Nuovi virus letali comparivano ciclicamente e batteri e funghi nefasti devastavano i territori e le coltivazioni intensive. In tutti i paesi del mondo nascevano piccole comunità isolate come le nostre, ma nuove dittature ne impedivano la nascita e la sopravvivenza. Anche da noi regnava la dittatura dei corpi e delle menti. Non avremmo potuto sopravvivere a lungo nelle città nelle quali ci sentivamo sempre più soli. La vera svolta arrivò attorno al 27. Migliaia di hacker in tutto il mondo tenevano già da anni sott'occhio i governanti e le grandi aziende per colpirle nel momento giusto e smascherare la loro vera natura. Trapelarono diverse notizie scottanti, fra cui le intercettazioni delle telefonate fra il ministro della salute e il direttore della Bimort, principale industria farmaceutica del mondo. Il ministro giudicava la mansuetudine un effetto collaterale da auspicarsi anche nei prossimi test sulle nuove pillole antibiotiche, visto la crescente propensione alla ribellione da parte di cittadini. Trapelarono anche i veri dati sul calo della fertilità femminile e sull'aumento di malattie croniche e di tumori, che erano stati mascherati dalle autorità competenti. Dimostrarono, attraverso la pubblicazione di documenti riservati, che i nuovi batteri che colpivano i raccolti facevano in fondo comodo alle industrie sementiere per propinare le proprie sementi geneticamente modificate e che dunque i governi, come pedine nelle mani delle grandi aziende, non avevano alcun interesse a debellare il batterio, ma si premuravano invece di mantenere tale lo stato di pestilenza. Gli hacker si insinuarono come dei virus nei server dello Stato, iniziando da quelli delle forze dell'ordine. Disabilitarono le centraline di comunicazione e cancellarono tutti i registri penitenziari, così che nelle carceri non si sapeva più chi doveva restarci ancora solo per una settimana e chi per il resto della vita. La ribellione fu bella e fatta. I detenuti evasero dalle carceri e si riappropriarono della loro libertà. Non riscontrarono un granché di resistenza da parte delle guardie, poiché esse ormai da mesi non ricevevano più lo stipendio a causa delle manomissioni del sistema informatico. I ragazzini iniziarono a boicottare le scuole e trascinarono con sé gli insegnanti per creare nuovi spazi di apprendimento, in cui loro stessi diventavano maestri degli adulti e i significati delle cose potevano essere reinventati. In questa grande sommossa popolare, i poveri di tutte le città assaltarono i supermercati, costringendoli a chiudere. Gli operai occuparono le fabbriche e iniziarono ad autogestirsi il lavoro e la produzione. Le persone tutte smisero di prendere queste pasticche che iniziavano a puzzare ormai troppo di fregatura, di controllo e di malessere imposto dall'alto. Fu così che le persone ricominciarono a provare emozioni. Rabbia, malinconia, euforia, inquietudine, entusiasmo, innamoramento, tristezza. Ed in quel momento capirono di essere stati ingannati e ben presto si diedero da fare anche loro per poter fare a meno del potere e del controllo che fino allora era stato esercitato su di loro. A darci l'ispirazione per la nascita della rete delle Repubbliche Liberate furono proprio gli hacker. La rete internet è di tutti e di nessuno, spiegarono, perché non si trova in nessun centro predefinito. Si appoggia temporaneamente a migliaia di server diversi che scambiano informazioni, tessendo una rete di relazioni, così che nessuno di essi può detenere il controllo su tutta la rete. Proprio in questo modo si decise di organizzarci. Le comunità di montagna, quelle di campagna e le città sarebbero state le repubbliche, i beni comuni, che si sarebbero autogestiti secondo le proprie esigenze, ogni nodo con le proprie regole, stabilite con il consenso di tutti. Sentimmo la necessità di rifondare una nuova scala di valori che non desse più spazio alla prevaricazione e al dominio dell'uomo sull'uomo, sulla donna o sulla natura. Stabilimmo che la nostra priorità non era l'efficienza, bensì il benessere. Non il comando, ma la comunicazione. Non l'uniformità, ma la diversificazione. Non la forza, ma la dolcezza e la comprensione. Si fondarono nuove scuole in cui a giorni alterni i bambini potevano essere maestri ed i maestri bambini. Lì si imparava non soltanto a leggere, a scrivere e a far di conto, ma anche a dare spazio alle emozioni e ai sentimenti, alla fantasia e al gioco. Le campagne producevano beni per la città e le città per la campagna. Giusto il minimo indispensabile. La maggior parte delle fabbriche furono abbandonate, molte di loro giacciono ancora oggi in rovina nei boschi urbani dove anche i cittadini possono godere della natura dietro casa. E così è tuttora. La Terra non ha smesso di surriscaldarsi né di farci penare con le siccità e gli uragani, ma ci stiamo piano piano abituando a capirla e a darle noia il meno possibile. La rete intanto si sta allargando. Nodo dopo nodo, sempre più persone reinventano le loro società autonome, ribelli, liberate. Bellissimo questo testo. Sì, grazie mille per averlo letto così bene, tra l'altro. Sì, sì, guarda, per me, guarda, questo entra in top 3 del... A buone chance, eh? Buone chance, sì, sì. Peccato che i premi verranno assegnati con il lancio dei dadi. Sì, sì. Sì, sì, come dice lo spottino, in maniera completamente casuale, quindi... Potrebbe capitarvi una crociera o un pollo di gomma in maniera completamente casuale. Comunque, vale la pena tentare la sorte, cari ascoltatori e ascoltatrici di Radio Wombat. Tanto lo sappiamo che il premio numero uno è una buona birra per i vostri aperitivi. Sì, a proposito, è finita quella là? Ce n'è ancora un pochino? Ce n'è ancora un po'. Oh, che bello. E prima di lasciarci, volevamo leggervi un'ultima cosina, una cosa prima di una chicca. Sì, allora è un articolo da Malamente, rivista di lotta e critica del territorio, un'altra di quelle riviste cartacee che come forse avrete intuito a me piacciono tanto, e è fatta da dei compagni con base nelle Marche, anche loro molto molto bravi, che parla di ruralità, parla di compagnitudine, insomma di tante cose belle. Vi invito a cercare e trovare Malamente. È un numero un po' datato, nel senso che è un numero di 3 anni fa, 2 anni e mezzo fa, e tuttavia è molto interessante. In questo periodo stavo andando a rileggermi un sacco di cose scritte in tempi non sospetti, che sorprendentemente si adattano bene alla condizione moderna, e spiegandoci anche che insomma avevamo già le armi per rispondere a questo presente che ci ha sorpreso così così impreparati, quindi bastava arrizzare un po' di più le orecchie. In particolare questo è un articolo, si intitola "Il futuro trionfa ma non abbiamo un avvenire", piattaforma critica della ricerca scientifica. Il modello scientifico conserva oggi una grande forza, un'immagine di universalità e potenza nel contesto di alterazioni climatiche e di sfacelo sociale globalizzato. In mezzo a tutti questi progressi nell'assurdità della vita e della crescente brutalità della società, la ricerca è il solo dominio che offre l'immagine rassicurante di una continuità con le epoche precedenti. Un dominio che sembra quasi al riparo dalla meschinità dei rapporti mercantili. Un dominio che, quando tutto sta crollando, continua ad avanzare. Funesta illusione. Certamente, un corpus di conoscenze rigorosamente stabilite sarà sempre indispensabile, così come l'elaborazione di tecniche al servizio delle comunità umane. Ma tutto ciò è molto marginale all'interno di quella che oggi chiamiamo ricerca, e serve il più delle volte a giustificare il resto. Nelle sue conseguenze, infatti, l'ingenua buona fede si unisce al peggior cinismo, lasciando campo libero a tutte le aberrazioni immaginabili. Non ci si salva servendo da sostegno ideologico alle peggiori atrocità. In questo periodo tormentato, in cui, tanto nella bocca dei ricercatori che nell'immaginario collettivo, la tecnoscienza si mostra come la sola adatta a definire il nostro comune avvenire, noi, studenti e studentesse, ricercatori e ricercatrici, disoccupati e disoccupate, noi che avevamo creduto nelle capacità dell'università di salvarci da compiti idioti o irresponsabili, abbiamo deciso di organizzarci in vista di uno sconvolgimento radicale e abbiamo scelto di non attendere. Denunciamo la collaborazione attiva dei ricercatori con i poteri militari e industriali che li finanziano, definiscono i loro obiettivi e utilizzano le conoscenze e le tecniche messe a punto nei laboratori. Questa collaborazione risale alle origini della scienza moderna. I progressi delle scienze hanno sempre intrattenuto strette relazioni con quelli delle tecniche di guerra. Ma con la Seconda Guerra Mondiale si è avuto un decisivo salto qualitativo e quantitativo. Oggi la maggior parte della ricerca scientifica servono prima di tutto ad accrescere il potere militare ed economico, piuttosto che a far avanzare le conoscenze. La volontà di sapere è l'alibi che serve a far accettare la corsa agli armamenti e la competizione economica internazionale. Dal momento in cui questo esercizio per il potere prende il posto dell'indagine problematica sul mondo, teniamo a denunciare i miti che legittimano o occultano tale collaborazione. Il primo è il mito del progresso. Il mito del progresso è sempre meno credibile, mano a mano che si moltiplicano, soprattutto per i più poveri, le conseguenze catastrofiche dello sviluppo economico. Le ricerche più nauseabonde e interessate utilizzano sempre il pretesto di servire a curare e sfamare il maggior numero di persone, di migliorare le condizioni di vita. Ma al posto di questi progressi, è evidente che la modernizzazione ha causato un tale disastro ecologico che le cose più elementari sono ora diventate di lusso: aria, acqua pura, alimentazione sana, vegetazione. Per di più, l'idea di un progresso continuo delle condizioni di esistenza, grazie al perfezionamento tecnico, nasconde la sottomissione degli individui a dei fenomeni che si impongono su di loro, rendendoli quotidianamente dipendenti dalle nuove tecnologie e dalle soddisfazioni compensatorie che garantiscono. Nella scienza, la visione progressista della storia si cula ancora nell'idea che ogni avanzamento delle conoscenze sia intrinsecamente buono, anche quando nell'immediato è associato alle peggiori cose. È pertanto urgente comprendere che i danni indotti dalla frenesia scientifica sono spesso irreversibili. La tecnoscienza, principale responsabile della loro moltiplicazione, non potrà fare niente o molto poco di fronte alle radiazioni, ai cicloni, ai tumori, che sono e restano delle catastrofi. Pretendere di risolverle con nuove soluzioni tecniche corrisponde a una fuga in avanti assurda. E l'idea di un'eventuale riappropriazione di questo insieme tecnologico si pare altrettanto improbabile quanto quella di trasformare un autogrill in un luogo di convivialità. Il secondo mito è quello della ricerca pubblica. La ricerca pubblica disegna l'immagine di una ricerca che obbedisce a criteri fondamentalmente diversi da quelli della ricerca privata. In realtà, le due sono ormai da lungo tempo inestricabili, tanto a livello di organizzazione e di finanziamento dei programmi, quanto per il tipo di indagini portate avanti. Entrambe partecipano allo stesso progetto di artificializzazione della vita e di meccanicizzazione delle relazioni umane. Vediamo tutto ciò esplicitamente confermato già da anni nella ricerca pubblica, dove vengono spinti avanti i valori e le pratiche dei settori più dinamici dell'economia commerciale, startup, piccole e medie imprese all'avanguardia, eccetera. Il mito della scienza pura, infine, è nato esattamente nel momento in cui l'intreccio tra l'industria e la scienza era definitivamente suggellato. Dai suoi inizi, la scienza moderna consiste essenzialmente nel produrre dei principi a partorire delle macchine. È una tecnoscienza. La circolazione nelle tecniche e nei saperi tende oggi insensata alla fede di una scienza come pura conoscenza, al fianco di una scienza detta applicata. Nelle scienze dure, i principi sono informulabili al di fuori di tutta l'apparecchiatura tecnologica che li sottende. Presiede la sperimentazione e struttura il rapporto di ricercatori con la realtà. Nelle scienze cosiddette umane, quei rari ricercatori che rifiutano di gestire e strumentalizzare le popolazioni non sono nulla di fronte ai tecnici del sociale che finiscono spesso per lavorare per loro. Bisogna dunque rompere con il progetto delle scienze moderne, per come si è cristallizzato nel XVII secolo, e che ancora oggi è un riferimento insuperabile, malgrado le precauzioni talvolta prese. Esso consisteva nello stabilire una conoscenza totale e oggettiva dei fenomeni grazie alle matematiche e ad acquisirne il controllo. I progressi della scienza hanno confermato l'inanità di questa religione sostantiva. La scienza, per quanto avanzata sia, non raggiungerà mai l'oggettività assoluta e non fornirà risposte alle domande fondamentali dell'essere umano. Quanto al versante pratico, il XX secolo ha consacrato lo scacco del punto di vista dell'ingegnere. Lungi dal servire la felicità e la libertà, la formidabile crescita di potere promessa dalla ricerca ha soprattutto contribuito a dissolvere le società umane e i corpi a colpi di assoggettamento e di dipendenza e a mettere in pericolo le condizioni minimali della nostra sopravvivenza. Svincolata da tutti i freni sociali e politici, la questione quantitativa del mondo si rivela catastrofica. Continua a dare l'illusione del suo controllo, solo esaurendo sempre più lontano il campo di sperimentazione, le sue iniziative riduzioniste e le sue equazioni fuori luogo. Nel loro desiderio di onnipotenza e di manipolazione, i gestori continuano a fare come se questo controllo fosse reale, persistendo, tramite pratiche fraudolente e sperimentazioni pericolose, a far entrare di forza nei loro modelli meccanicistici tutto ciò che hanno rinunciato a comprendere, fino ad arrivare a produrre una vita in campana di vetro, nella quale nessuno dispone più dei punti di riferimento che permettono di riflettere e giudicare. Al contrario di tutti i progetti politici di sinistra o di destra, che appoggiano ancora questo programma di controllo totale del vivente e non propongono che di calarcisi un po' di più, noi pensiamo che il punto di partenza di ogni riflessione politica dovrebbe risiedere in questa duplice constatazione. Il crollo sempre più rapido delle condizioni biologiche della nostra sopravvivenza. è correlato a questo, il dominio della tecnoscienza sulla sopravvivenza e la riproduzione di tutti. Secondo, la crescente impotenza degli esseri umani nel corso della propria esistenza, che svuota di sostanza i concetti di ragione e di libertà. Molte cose sono da fare per condurre una simile offensiva. Prendere coscienza che ci sono già delle linee di frattura interne alla ricerca, che il disagio legato alla vita nei laboratori, alle concezioni che vi sono coltivate e al sentimento di partecipare all'annientamento delle persone è molto reale e non è solamente un problema di carattere, di psicologia individuale. Approfondire l'analisi di ogni dominio da noi conosciuto, individuare, attualizzare e mettere in comune le critiche della scienza moderna per rompere con la specializzazione e l'isolamento vigenti nei laboratori. Comprendere come dei movimenti di contestazione forti negli anni 70, come per esempio le lotte contro la ricerca militare o nucleare, si ritrovano oggi completamente soppressi, sommersi sotto l'avanzata tecnologica. Diffondere questa critica della ricerca nel mondo industriale, ovunque sia ancora possibile portare una voce discordante e mettere fine, laddove si può, all'insopportabile impunità dell'oscurantismo scientista. Denunciare senza ambiguità tutte le procedure pseudodemocratiche, forum ibridi, consultazioni di cittadini, sondaggi su internet, che consistono nel far validare dalla maggioranza decisioni già prese e che in questo modo incorporano, neutralizzano e discreditano la critica. Essere, insomma, ovunque si diffonda la dittatura ordinaria della verità degli esperti, per ricordare di quali verità si tratti e quali usurpazioni e quale tipo di mondo essi difendano. Facciamo appello a stabilire legami ancora possibili tra tutte le persone che, siano esse provenienti o meno dall'ambiente scientifico, talvolta non si conoscono e intendono resistere nei fatti all'avanzata della tecnoscienza. La questione non è di ravvicinare la scienza al cittadino, ma di rompere la logica delle specializzazioni, di denunciare la menzogna della neutralità della ricerca e di impedire alla scienza contemporanea di contribuire giorno dopo giorno a distruggere la politica rimpiazzandola con un affare tecnico. Se abbiamo a cuore la curiosità e il desiderio di conoscenza, pensiamo che sarebbe molto meglio applicarli nei confronti di ciò che ci sta succedendo. E questo articolo era a firma, scritto un po' di anni fa, quindi in tempi non sospetti, a firma di un gruppo di ricercatori autonomi. Grazie Bevi per queste riflessioni che ci hai portato oggi, e appunto essendo la prima, quella di una TAC riflessioni a freddo, no? Questa qui è una riflessione ancora molto, molto più antica di questa pandemia, che ci ha fatto tanto riflettere sul ruolo della scienza e sulla struttura di questa società. Sicuramente ci fanno tornare a una visione globale, no? A non concentrarci su quelli che sono stati gli eventi degli ultimi mesi, ma a riflettere su tutto ciò che sta alla radice di questo grande problema che ci sta attraversando. Sì, certo. Cioè, è sempre bene entrambi gli articoli che vi ho letto hanno alcuni punti in comune, e uno che su cui secondo me è molto necessario riflettere è proprio quello della critica alla specializzazione, al restringimento del punto di vista con l'illusione di mettere più a fuoco le cose. E molto spesso invece è una visione ambientale, nel senso una visione più complessa e più aperta, e, come dire, una zoomata indietro sistemica ci vuole ogni tanto, sì, che ti permette di magari capire non fino a fondo una cosa, ma capirne molto bene il posizionamento all'interno di un sistema molto più complesso, e quindi anche capire se vale la pena di approfondirlo o meno. Dai, allora, dopo questa puntata che è stata un po' aperitivo, un po' pippone, non lo so cosa abbiamo fatto, se era radio mattone o radio aperitivo. Le birrette ce le siamo bevute, gli snacchini ce li siamo mangiati, speriamo che anche voi siate stati bene. Io volevo salutarvi, e salutarvi. Sì, volevo salutare con quest'ultima canzone che me l'ha chiesta di metterla su il mio amico Paolo, che suona nella Balotta Continua, e che mi ha detto: beh, non hai mai messo una canzone di Balotta Continua sulla radio Wombat. Io ho detto: Paolo, hai ragione, e lo farò appena possibile. E quindi adesso ascoltiamo il Balotta Continua. Dai, Beppe Mani vi saluta. Anche ciao a tutti. Esis. Ciao. Un bacione a tutte e a tutti. E alla prossima. Ciao. Facce sorridenti, le compagne 15 anni, gli operai con gli studenti, potere agli operai, ma la scuola del padrone, sempre uniti vinceremo, viva la rivoluzione. Quando poi le camionette hanno fatto i caroselli, i compagni hanno impugnato i bastoni dei cartelli, ed ho visto le auto blindo rovesciate, poi bruciate, campettanti baschi neri con le teste fracassate. La violenza, la violenza è la rivolta, che è esitato questa volta, sotterrà con noi domani. La violenza, la violenza è la rivolta, che è esitato questa volta, sotterrà con noi domani. La violenza è la rivolta, che è evitato questa volta, giocherà con noi domani.